Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi ritorniamo su un tema che abbiamo affrontato già almeno un altro paio di volte nei mesi scorsi. Parliamo della sanatoria, della regolarizzazione di quelle che sono state battezzate case fantasma, anche se il termine è improprio, comunque serve a rendere l'idea almeno fra i nostri ascoltatori. Gli immobili non accatastati presenti in Italia. Perché ne ritorniamo a parlare? Perché, come ricorderete, intorno al periodo di Natale il decreto legge mille proroghe ha spostato dalla fine di dicembre 2010 al 31 marzo di quest'anno il termine per avvalersi della possibilità di regolarizzare questi immobili, con un sospiro di sollievo per chi ancora non aveva ultimato le procedure di regolarizzazione. Qualche cifra: tra il 2007 e il 2009 l'Agenzia del Territorio ha scovato oltre 2 milioni di case fantasma, anche se in realtà, appunto, come ribadisco, il termine non è corretto, ma di particelle non risultanti appunto al catasto, e ha individuato anche qualcosa come 800.000 fabbricati censiti come rurali ma che hanno perso i requisiti di ruralità. Al 30 settembre dello scorso anno le abitazioni nascoste al catasto e poi regolarizzate erano circa 560.000, probabilmente a dicembre appunto i dati sono differenti, speriamo appunto che siano risultati in netto aumento. Ma ripercorriamo un po' tutta questa operazione, come è stata fatta l'individuazione negli anni passati degli immobili non censiti e quindi non risultanti al catasto, come si fa adesso la regolarizzazione per chi non avesse fatto in tempo a farlo entro dicembre ma adesso può avvalersi di questa proroga, e come si fa anche ad accertare se ci si trovi in una situazione di irregolarità che magari può anche essere inconsapevole, in buona fede e chissà. Allora noi oggi questa mattina abbiamo disturbato intanto l'ingegner Franco Maggio, direttore centrale catasto dell'Agenzia del Territorio. Ingegnere, buongiorno e grazie di essere con noi a Salva Danaio questa mattina. Buongiorno a voi. Buona giornata. E ringraziamo invece un ospite ormai molto noto agli ascoltatori di Salva Danaio, il notaio Angelo Busani, collaboratore appunto esperto su queste tematiche per il Sole 24 Ore. Notaio Busani, buona giornata. Buongiorno a tutti e agli ascoltatori, anche a voi. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori che possono chiamarci appunto per poter interagire con i nostri ospiti di questa mattina, a far loro delle domande, anche se l'ingegner Maggio sarà con noi solo nella prima parte del programma e quindi, come al solito, tempesteremo di domande il notaio Busani. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Un'occhiata alla borsa, perché oggi è una giornata piuttosto interessante sui mercati finanziari, non tanto per le prestazioni degli indici del vecchio continente che sono moderate: Parigi più 0,2, Francoforte meno 0,09, Londra meno 0,6 e Milano più 0,6%, quindi abbiamo una seduta di sostanziale consolidamento dei vistosi rialzi di ieri, ma abbiamo dei casi di piazza affari da segnalare e abbiamo poi l'esito delle due attesissime aste che si sarebbero dovute svolgere, i titoli di Stato spagnoli e italiani, aste che si sono chiuse con successo perché per fortuna la domanda dei titoli governativi è ancora piuttosto alta, e però insomma per la Spagna si è potuto risparmiare qualcosa in termini di rendimenti riconosciuti, nel senso che comunque i rendimenti sono più alti per i titoli quinquennali collocati in asta questa mattina per 3 miliardi di euro, però il tasso è stato leggermente inferiore alle attese. Il tasso medio di questi titoli è stato al 4,54%, inferiore al 5% atteso dal mercato, mentre per quello che riguarda l'asta di BTP a 5 anni del Tesoro italiano, il rendimento annuo lordo è salito al 3,67%, in rialzo di circa 43 punti rispetto all'ultima asta dei quinquennali a novembre. Per trovare un rendimento più alto bisogna risalire al gennaio del 2009, al 3,87%. Tassi in rialzo anche per i BTP a 15 anni al 5,06%. Comunque il Tesoro è riuscito a collocare tutta la forchetta massima prevista di 6 miliardi a fronte di una domanda che ha superato gli 8,4 miliardi. Un caso spicca oggi a Piazza Affari, ve lo racconto rapidamente. Fondiaria sta volando adesso del 12,30%, ma è arrivata a crescere anche del 18%. Cosa succede? Che i francesi di Groupama, secondo indiscrezioni sui quali poi si è dovuta anche dare una conferma su sollecitazione della Consob, i francesi di Groupama punterebbero a salire ad oltre il 20% della compagnia, e vedremo appunto con che modalità. Fondiaria ha stabilito un aumento di capitale, quindi aderendo a questo aumento di capitale appunto c'è un'assunzione di una partecipazione intorno al 17-20%, e su questa prospettiva il titolo naturalmente stamattina sta volando nuovamente molto galvanizzati. tutti gli altri titoli del comparto bancario e finanziario già ieri protagonisti assoluti della seduta sui mercati europei. Unicredit più 2, Mediolanum più 1,85, Mediobanca più 1,85. Oggi il mercato invece abbandona la galassia Fiat, Fiat Industrial meno 3,48, Exor meno 2,63, le Fiat SPA meno 1,47, Banco Popolare parte lunedì l'aumento di capitale, il titolo oggi flette del 3%. Vi ricordo che oggi c'è anche la riunione della Banca Centrale Europea sui tassi e l'euro sul dollaro, quota 1,31,34. Lasciamo la borsa. Andiamo allora al tema di questa mattina, come avete sentito, che vi dà anche l'opportunità di interagire con noi all'800240024. Parliamo della sanatoria, della regolarizzazione di quelle che sono state ormai ribattezzate, così le conosciamo, come case fantasma, anche se, come ho detto prima, il termine non è corretto. E vi ho già ricordato appunto che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto mille proroghe, il termine per le cosiddette autodichiarazioni riguardanti appunto gli immobili fantasma è stato definitivamente fissato al 31 marzo del 2011. Comincio subito la mia chiacchierata con l'ingegner Franco Maggio, direttore centrale catasto dell'Agenzia del Territorio, perché siamo partiti, ingegneri, da questa cifra sulla quale appunto la stampa si è spesa molto anche negli ultimi mesi, di questi 2 milioni di immobili censiti, in un'operazione che ha interessato appunto l'Agenzia del Territorio dal 2007 al 2009. Ci vuole ricordare con che modalità avete appurato l'esistenza di questi immobili, ma in realtà sono da definire particelle di abitazioni, di territorio, anzi in gergo tecnico mi sembra che si definiscano così. Come è stata fatta l'identificazione? E so che è stato letteralmente sorvolato tutto il territorio e mappato tutto con grande precisione, ingegnere. Allora, l'attività, l'operazione è iniziata nel 2007 è stata svolta in collaborazione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'AGEA, che ha utilizzato le stesse ortofoto per la verifica delle richieste di contributi agricoli legate alle coltivazioni dei terreni, quindi in sinergia con un'altra pubblica amministrazione. Sono state utilizzate le ortofoto digitali ad alta risoluzione che coprono tutto il territorio nazionale, che quindi hanno fotografato la realtà territoriale ad una certa data, e sono state sovrapposte alla cartografia informatizzata, cartografia catastale vettoriale, quindi informatizzata, per poter effettuare il confronto fra quanto veniva rilevato sul territorio, quindi dalla realtà, e quanto rappresentato nelle mappe catastali. Questo, come ha precisato, ha consentito di individuare circa 2 milioni di particelle di catasto terreni sulle quali è stato individuato un qualche cosa, quindi un fabbricato che deve essere oggetto di accertamento. Quindi questa è l'attività che hanno svolto, diciamo, è stato svolto dall'agenzia in questi 3 anni. Questi elenchi sono stati svolti per aree geografiche, ci sono state pubblicazioni di questi elenchi di particelle nell'anno 2007, nell'anno 2008, nell'anno 2009, e complessivamente hanno portato al numero di cui abbiamo parlato di particelle di catasto terreni. Che potrebbero quindi includere un numero molto più alto, per l'appunto, di immobili da denunciare e autocertificare al catasto. Questo, diciamo che la manovra, il decreto legge numero 78 prevede anche, oltre ai fabbricati che non risultano, quindi completamente non dichiarati o parzialmente non dichiarati, perché potrebbero essere ampliamenti, prevede, ha esteso anche le dichiarazioni dei proprietari di regolarizzazione alle variazioni interne dei fabbricati stessi, e quindi ha ampliato ulteriormente anche le fattispecie possibili, quindi tant'è che i commi previsti dall'articolo 19 del decreto legge numero 78 riguardano tutte le fattispecie, cioè quindi quelle dei fabbricati individuati con la sovrapposizione dell'ortofoto alla cartografia, e poi prevedono anche la regolarizzazione catastale per quanto riguarda le variazioni interne alle abitazioni o unità immobiliari più in generale, perché non solo sono abitazioni ma anche altre destinazioni d'uso come autorimesse, box, industrie e quant'altro. Ecco, ingegner Maggio, allora, una volta fatto l'accertamento con il quale lei ci ha detto appunto sono stati individuati, intercettati tutti quei fabbricati oggetto poi di accertamento successivo, è arrivato, dicevamo, il provvedimento di luglio, la manovra estiva, il decreto legge 78, che ha stabilito di fare che cosa dunque con queste particelle fantasma, chiamiamole così a questo punto? Ecco, praticamente il decreto legge 78 ha riaperto di fatto i termini che i privati avevano, i cittadini avevano, per la presentazione spontanea delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, che come noto devono essere svolte con un tecnico professionista, perché sono presentazioni di elaborati tecnici, certo, che devono essere firmati dal tecnico professionista, anche se sono predisposti a livello informatico e telematico, quindi per l'aggiornamento della propria situazione catastale. Quindi il cittadino, entro questo termine che ora è prorogato al 31 di marzo del 2011, deve prima verificare la propria posizione tramite ancora la consultazione di questi elenchi che sono disponibili sul sito internet dell'agenzia, erano stati comunicati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, erano stati resi disponibili anche presso i comuni, oppure possono chiedere informazioni direttamente presso i nostri uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Quindi verificare se il proprio fabbricato o anche il proprio ampliamento si trova in questi elenchi e quindi richiede una regolarizzazione. Tra l'altro, successivamente alla regolarizzazione, poi magari guardi, lasciamo questo aspetto, lo affronto con il notaio Busani. Ecco, quindi nel momento in cui il decreto legge 78 ha stabilito le modalità con cui fare questa sorta di autocertificazione, autodenuncia, da luglio a dicembre, ingegner Maggio, che cosa è successo? Quante autocertificazioni sono venute alla luce? Io prima ho dato un dato di settembre, ma probabilmente sono assolutamente sicura che ce ne siano anche di più aggiornati. Ingegner Maggio. È appropriato definirle proprio presentazioni di atti di aggiornamento tecnico sia del catasto terreni che del catasto fabbricati. Quindi diciamo che noi abbiamo notato un significativo incremento nell'ultimo trimestre. Ora i dati sono in fase, ecco, di, visto che c'è stata anche la proroga, di praticamente evoluzione in evoluzione, perché comunque fino al 31 c'è stato un incremento molto alto nei mesi di novembre e dicembre, ora l'attività prosegue e quindi direi che poi faremo la verifica alla fine, perché noi dovremo intervenire nei casi in cui il cittadino non ha provveduto a presentare in maniera spontanea la propria dichiarazione di aggiornamento catastale tramite il proprio tecnico professionista che è incaricato. Quindi noi interverremo successivamente. Ora il legislatore, il governo ha voluto dare questa ulteriore proroga tecnica, cioè breve proroga, proprio per consentire a tutte le persone che si sono rese conto di essere in una situazione di non regolarità di poter presentare spontaneamente e quindi questo atto di aggiornamento. Quindi noi ora abbiamo dato istruzioni agli uffici affinché diano la massima disponibilità e quindi consentano nel modo più agevole possibile la presentazione di questa documentazione, pur ricordando che una buona parte, cioè circa la metà degli atti di aggiornamento catastali, vengono presentati oramai dai professionisti per via telematica, quindi questa modalità agevola molto anche accelera un po' i tempi. Ingegner Maggio, lascio concludere. È a posto così. La modalità telematica agevolerà, quindi potrà evitare anche delle possibili code che si verificheranno negli ultimi periodi. Però ecco, è opportuno, visto che ci sono ora ci sono rimasti 2 mesi e mezzo, che i cittadini verifichino prima di tutto la propria posizione, perché come diceva all'inizio possono essere anche in buona fede, quindi possono esserci anche delle dimenticanze di aggiornamento catastale, magari non tanto nelle nuove costruzioni, cioè le costruzioni complete, ma anche in ampliamenti piccoli o grandi fatti vicino alla propria abitazione, la costruzione di un box, di una pertinenza, di una qualche ampliamento che ha riguardato l'abitazione o altri fabbricati, altre destinazioni, perché tutte le destinazioni vengono ovviamente intercettate, e verificata la propria posizione quindi decidere di attivarsi nel più breve tempo possibile, perché al momento la procedura consente, ecco, questa regolarizzazione con minori oneri e sanzioni. Dopodiché dal primo di aprile, oramai l'agenzia si è preparata, era diciamo già pronta anche dal primo gennaio, comunque dal primo di aprile inizierà le azioni di accertamento con l'attribuzione della rendita presunta, come prevede la norma, che tra l'altro io volevo fare questa precisazione, ingegner Maggio, perché ieri è stato un po' oggetto anche di una così chiarimento con il vostro ufficio stampa, che è stato necessario naturalmente, perché all'inizio si pensava, quantomeno l'iniziale formulazione del decreto mille proroghe mi pare che stabilisse questo, che le azioni propedeutiche appunto all'attribuzione della rendita presunta sarebbero partite dal 2 gennaio di quest'anno a prescindere dalla proroga dei termini. Invece così non è, si partirà ad aprile. Noi, ecco, quello che fa testo attualmente è il decreto legge pubblicato, il decreto legge del 29 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi fa testo la proroga completa di tutte delle attività relative ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 19 al 31 marzo 2011 in maniera indistinta. Comunque l'agenzia si sta preparando, si sta organizzando per iniziare in modo massivo le attività dal 1 aprile del 2011 di accertamento di tutte queste posizioni, perché come dicevo noi abbiamo una fotografia dall'alto e quindi dobbiamo andare a vedere in maniera puntuale di che cosa si tratta, ecco, non possiamo dire a priori. Certo, non è detto che poi in automatico appunto questo ulteriore accertamento stabilisca una variazione della rendita dell'immobile appunto che è stato, di cui è stata verificata la modifica in sostanza. La variazione della rendita può esserci nei casi di ampliamento, ecco. Nei casi invece di nuova costruzione c'è una rendita di fabbricato nuova. Ecco, benissimo. Ingegner Maggio, io la saluto, devo andare subito in pausa pubblicitaria perché sono già in ritardo, la ringrazio molto per essere stato con noi, magari ci risentiamo ad aprile per questo nuovo step di tutta l'operazione appunto della sanatoria degli immobili fantasma, tra poco. Fantastico Roberto che ci scrive: ho un capannone che non è stato ripreso dalle foto aeree perché è coperto dalle querce, posso modificarlo e poi metterlo in regola e mettermi in regola? E vabbè, adesso anche questo chiederemo al notaio Angelo Busani, che saluto e ringrazio di nuovo di essere con noi questa mattina. Notaio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Può considerarsi protetto dalla sanatoria o dall'obbligo di regolarizzare, Roberto, visto che il nuovo capannone che ha costruito e che ha modificato o vuole anzi modificarlo è coperto dalle querce? Questo mi offre l'opportunità di dire che, con tutto il rispetto della estrema tecnicità e dell'estrema avanzatezza dei mezzi spiegati dall'Agenzia del Territorio, ho esperienza diretta del fatto che qualcosa gli possa essere sfuggito, che quindi le querce possano aver protetto anche qualche particella. Rendetevi conto che da un aereo fotografano a terra particelle di pochi metri e quindi l'errore, a mio giudizio, che non faccio il geometra, non faccio il tecnico, non so nulla di matematica, mi appare inevitabile e quindi ci saranno un sacco di situazioni, e io le so per esperienza diretta, dove le particelle indicate dall'agenzia sul suo sito non corrispondono con quelle effettivamente abusive. E quindi c'è un sacco di particelle non fotografate, così come c'è un sacco di particelle fotografate che non hanno bisogno di nessuna correzione perché poi alla fine sono regolari, quindi bisogna tradurre la foto aerea, immaginatevi un aereo che va e fotografa con delle costruzioni che possono essere il pollaio, l'autorimessa, il piccolo ampliamento, insomma bisogna che ognuno si dia carico di verificare la propria situazione. Ognuno di noi sa se ha una casa, se l'ha ampliata, se ha costruito un qualcosa, certo, nel giardino, che l'abbiano fotografato o no, bisogna mettersi in regola, la legge è chiara. Esatto, insomma, piuttosto che pensare alle scamotage per proteggersi da questo accertamento, in realtà se solo venissero alla luce, o che non le autocertificazioni volontarie, appunto questi 2 milioni di particelle non risultanti al catasto, già pensate che beneficio per il fisco che ci sarebbe, quindi per tutta la collettività. Comunque adesso a noi interessa capire anche come si procede per questa regolarizzazione, per chi magari non avesse avuto modo di mettersi in regola perché gli è sfuggito questo provvedimento, appunto il decreto legge 78 della scorsa estate. Avete altri 3 mesi perché il milleproroghe appunto ha prorogato tutto, e allora io, partendo magari dal caso di Paolo dalla Spezia, faccio spiegare al notaio Bosani cosa si deve fare, con chi ci si deve interfacciare, con quali interlocutori. Paolo, buona giornata. Sì, buongiorno, salve. Io praticamente ho costruito un box una decina di anni fa. Ho fatto il progetto, perizia sismica e geologica, però non è mai stato accatastrato. Sì. Volevo chiedere se, ho visto l'elicottero passare più volte sopra casa mia, ma ho guardato nell'elenco e non risulta come particella. Volevo chiedere praticamente se rientravo nella sanatoria o se dovevo fare qualcosa di particolare, perché non sull'elenco del comune non c'è. Va bene Paolo, allora sentiamo un po'. Dunque, addirittura Paolo è completamente sconosciuto anche alla sua amministrazione comunale, soprattutto nella costruzione di questo box che risale ad una decina di anni fa, e non risulta dalle particelle, e chissà se quegli aerei che hanno sorvolato la sua abitazione erano quelli che stavano cercando di fare appunto la mappatura e la sovrapposizione delle foto. Notaio Busani, comunque, a prescindere da questo, in ogni caso il fatto che lui risulti sconosciuto ai più non significa che non sia il caso che si metta in regola. No, allora bisogna chiarire una cosa specifica. La regolarizzazione non riguarda chi è stato fotografato indebitamente, cioè in situazioni di irregolarità, riguarda chiunque abbia un fabbricato rappresentato in catasto in un modo non conforme all'attuale stato di fatto, che sia stato fotografato, che non sia stato fotografato. Infatti, quello è uno strumento che ha utilizzato l'amministrazione fiscale, l'agenzia del territorio, appunto per poter risalire a tutte quelle aree che sono presumibilmente oggetto di necessità appunto di sistemazione, ma questo non implica che... Ecco, appunto. Voglio dire, dottoressa, il tema è che se io ho un negozio che è diventato un'autorimessa o se ho un ufficio che è diventato un'abitazione e quindi non sono stato proprio fotografato da nessuno, certo. Lì devo regolarizzare anche quelle situazioni lì, cioè chiunque abbia un fabbricato che planimetricamente non è corrispondente allo stato di fatto, chiunque abbia un fabbricato che è accatastato diversamente dall'uso che se ne fa oggi quotidianamente, tutti chi ha un fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti di ruralità, ebbene tutti costoro debbono fare in modo che il catasto abbia una rappresentazione planimetrica regolare, cioè corrispondente allo stato di fatto, e abbia una denuncia di uso dell'immobile in modo conforme all'attuale utilizzazione. Ciò consente la tassazione corretta dei fabbricati, fotografati o non fotografati. C'è tempo fino al 31 marzo, non si pagano sanzioni, dopodiché chiunque verrà scoperto, i primi saranno coloro che sono stati fotografati, e tutti gli altri comunque anche non fotografati che venissero scoperti in situazioni irregolari avranno le sanzioni del caso concreto. Non avrà sanzione chi procederà a questa regolarizzazione entro il 31 marzo, che sia una regolarizzazione planimetrica come sarà senz'altro nella stragrande maggioranza dei casi, a fronte di nuove costruzioni, a fronte di ristrutturazioni, a fronte di ampliamenti, e sarà anche chi deve denunciare il cambiamento d'uso dell'immobile da abitazione a ufficio, da negozio ad autorimessa, da opificio industriale in... che ne so, in palestra, e tutti, insomma, tutte le variazioni d'uso che possono essere intervenute in un fabbricato, ecco, quelle sono oggetto di sanatoria catastale. Allora, mettiamo quindi che l'ascoltatore, poi le devo leggere anche quest'altra, Busani, ho costruito nel giardino, ci scrive Roberto, a Salvadanaio chiocciola radio24.it, dietro casa, un forno a legna per pizza, dimensione 2 metri per 1,5, devo denunciare, adesso la faccio riflettere anche su questo, però intanto rimaniamo a un più banalissimo box, cosa deve fare l'ascoltatore appunto che ci ha chiamato poco fa per quindi mettersi in regola con il catasto, a questo punto partendo da zero, notaio? Ma è molto semplice, o lui fa il geometra e provvede in proprio e quindi può presentare atti in catasto, oppure banalmente chiamare il geometra di fiducia, l'architetto, l'ingegnere intendo dire, il tecnico, e dargli l'incarico di rappresentare catastalmente la situazione in modo corretto, è già finita, pensa poi il tecnico a questa storia, non c'è nessuna attività da svolgere in proprio, ovviamente a meno che uno sia capace sia iscritto in ordine professionale che lo abilita a introdurre atti in catasto. Allora, intanto andiamo a Mariangela da Asti. Mariangela. Ah, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho questo problema. Praticamente ho ereditato nel 2008 una casa di campagna da mio padre. Questa casa era stata catastata, io qui ho la planimetria del geometra che a suo tempo aveva presentata nel 1993 e aveva considerato locali di sgombero quello che praticamente sono 2 garage. Sì. E noi parlo per lei perché questa casa l'abbiamo ereditata io e mia sorella, stiamo pagando semplicemente delle categorie A, non c'è una categoria C come garage. Allora, adesso qua già mi mette un po' in difficoltà Mariangela. Detto questo è un po' anche il caso che abbiamo preso, notaio Busani, per manifestare che c'è chi in buona fede magari non si trova in una posizione di totale regolarità con il catasto, in condizioni di buona fede però. Per Mariangela, come bene suggerire che si debba comportare? Allora, il caso di questa signora è assolutamente veniale, perché lei ha, da quanto ho capito io, ha accatastato come cantine, lei le ha chiamate depositi. Locali di sgombero, sì. Sì, sono di fatto cantine, quelle che chiamiamo cantine, e quindi in categoria A, che è la categoria delle abitazioni e delle loro pertinenze, anche le cantine sono in categoria A perché se sono accatastate insieme alla casa, perché desumono la loro natura dall'abitazione a cui sono pertinenza. Evidentemente questa casa che la signora ci descriveva è una casa in campagna o ex campagna dove questi locali che la signora ci descriveva evidentemente erano locali accessori all'abitazione, magari staccati da essa oppure incorporati nell'edificio dove c'è l'abitazione. Fatto sta che evidentemente sono stati accatastati come cantine dell'abitazione, quindi in categoria A insieme all'abitazione. Il peccato è veniale, perché se la signora sta usando questi sgomberi come autorimesse, in effetti l'uso autorimessa vorrebbe che questi locali fossero scorporati dall'abitazione, quindi non più in categoria A ma in categoria C6, cioè come autorimesse. Ciò provoca un incremento dell'ICI da versare e un incremento dell'IRPEF da versare, c'è dubbio. Quindi la situazione è irregolare, tra tutte le situazioni del mondo forse la meno irregolare, mi faccia sorridere un po' sull'irregolarità, non voglio stimolare a non regolarizzarla, sia chiaro, però è chiaro che è un peccato venialissimo. Cioè certo, comunque il catasto potrebbe chiederle appunto in questa fase successiva di accertamenti, appunto, che partirà da aprile. Potrebbe, ma ci immaginiamo che il catasto abbia da fare per i prossimi X anni, perché andare a capire che questa cantina che la signora in catasto è un'autorimessa, credo che anche al catasto più attento faccia fatica. Ma per non saperne leggere e descrivere, se Mariangela non volesse convivere con questa situazione comunque di incertezza? Come non deve convivere, perché deve accatastare. Okay, io ci sto ridendo sopra, non sto incitando l'abusivismo. Certo, è chiaro che se la signora domattina vendesse la casa, qualsiasi notaio come sottoscritto direbbe: signora, vada a catastare bene la casa, se no non si vende, per esempio. Certo. E quindi fatto sta che per regolarità, adesso non sto ridendo più, ma dicendo le cose quali sono obbligatorie, questa signora ha preso atto del fatto che questi sgomberi non sono più sgomberi, ma sono C6, cioè autorimesse, deve accatastarli come autorimesse, quindi non è stata sicuramente fotografata, nessuno la andrà mai a disturbare perché nessuno si accorgerà che lei sta usando come autorimesse degli sgomberi, però per un intento di liceità complessiva, di correttezza complessiva dei comportamenti che tutti noi dobbiamo avere, ebbene quelli sono locali C6 che come tali vanno accatastati. Non pensi di scamparla sul forno a legna per la pizza? Perché vedo l'ora di rispondere. La conosco ormai da tempo, e quindi adesso ci divertiremo un po' anche con questa cosa subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande sul tema di questa mattina: la proroga della sanatoria per le case fantasma. Dette in maniera molto banale, così capite bene di cosa stiamo parlando. C'era tempo, come ricorderete, fino al 31 dicembre per mettersi in regola con il catasto nel caso abbiate fatto negli anni passati, nei mesi passati, qualche lavoro di ampliamento della vostra abitazione. Adesso invece c'è stata, appunto, con il decreto legge mille proroghe, questa ulteriore proroga al 31 marzo di quest'anno. Allora, notaio Busani, questo forno per le pizze del nostro ascoltatore, che ha costruito nel giardino di casa sua, 2 metri per 1,5 metri. Allora, vi stupirò con effetti speciali questi fabbricati microscopici hanno una norma di esenzione dall'accatastamento, e la leggo testualmente, la sono andata a cercare mentre sfruttando il traffico. La norma di esenzione è un articolo disperso in un regio decreto del 1939 che esonera da dichiarazione catastale, ad esempio, I forni per le pizze. Un regio decreto prevedeva già i forni per le pizze. I manufatti, leggo testualmente, con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, a meno che si tratti di opere rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie. Io francamente il forno per le pizze lo considererei al sicuro. Lo considererei abbastanza al sicuro. Però magari farsi una chiacchierata con un geometra per anche qua sgombrare voglio dire, ogni dubbio. Anche qua voglio dire, è meglio comunque sempre evitare di interpretare le cose a proprio favore e di tenerle regolari, visto che tanto la rendita non cambia, visto che tanto non cambia praticamente nulla ad avere una situazione perfettamente regolare, è inutile che andiamo a cercare i cavilli. Mettiamo nella planimetria dell'abitazione anche questa appendice che è il forno a legna e basta, e alla fine avremo una situazione regolare senza dover andare a indagare nelle norme del 39 se per caso siamo dentro fuori. Guardi, notaio, tra l'altro stanno arrivando tante di quelle domande curiose che vorrei fare questa trasmissione. Vorrei che questa trasmissione con lei durasse almeno altre 2 ore, perché mi stanno arrivando rimesse, pollai e quant'altro, portici, legnaie. E insomma, vediamo se riusciamo ad accontentare tutti, però andiamo a mattina da Pistoia con un banalissimo appartamento. Tina, buona giornata. Grazie tanto anche a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, io le volevo chiedere se devo adottare questo provvedimento anche per quanto riguarda l'interno di un appartamento. Cioè, io avrei fatto abbattere una parete per comunicazione con un'altra stanza, ho fatto fare un arco e ho chiuso parzialmente una porta facendoci una finestrina interna, pur sempre però una finestra. Ecco, quando ha fatto questi lavori di ristrutturazione, lei ha eseguito appunto tutte le procedure regolari, come per esempio la dichiarazione di inizio attività da comunicare al comune? Ecco, quindi, quindi per capire appunto se perché se quello anche poteva costituire un presupposto già di come dire, messa in regola con il catasto. Notaio Busani, allora, i potenti mezzi dell'Agenzia del Territorio forse non hanno avuto modo di visualizzare probabilmente l'interno delle abitazioni, ce lo diceva prima anche l'ingegner Maggi. In questo caso Tina cosa deve fare? Può approfittare di questa regolarizzazione, questa sanatoria? Allora, approfittare della sanatoria assolutamente sì. È abbastanza probabile che quello che la signora ha fatto incida sulla rendita catastale. Quindi per dare una risposta certa bisognerebbe vedere la casa e bisognerebbe avere le planimetrie in mano. Resta fermo il fatto, facciamo sempre la prova del 9 con la futura compravendita di questa casa. Infatti. Perché non dobbiamo scordarci, dottoressa, di due cose che non abbiamo ancora detto. Che la normativa che reca la sanatoria reca anche una regola per cui non si fanno compravendite se le case non sono regolari. Sì. Uno. L'allineamento catastale del quale abbiamo parlato con lei tempo fa. Esattamente. Dopodiché la seconda cosa che dobbiamo dire, perché questo gli ascoltatori va detto e non è stato ancora detto, c'è un piccolo però in questa sanatoria. Il piccolo però è che chi ha fatto opere abusive con la sanatoria si autodenuncia, cioè si mette in regola con il catasto ma rimane scoperto dal lato comunale. Il lato comunale è il seguente: se erano opere che al tempo in cui furono fatte erano autorizzabili, lì si fa una sanatoria anche in comune e la storia finisce lì. Quindi sanatoria in catasto e sanatoria in comune sono due cose diverse. Se per caso le opere quando furono fatte non erano autorizzabili, faccio il caso di una costruzione eretta in un'area che non aveva capacità volumetrica, faccio il caso di una costruzione eretta in un'area soggetta a vincoli paesaggistico, ad esempio, fatto sta che mi vado sia a regolarizzarmi in catasto, ma mi vado a autodenunciare in comune, vuol dire che il comune è molto facile che mi faccia l'abbattimento e è molto facile che mi denuncia la Procura della Repubblica per costruzione abusiva. Quindi rischia tutto questo la nostra ascoltatrice di Pistoia? La nostra ascoltatrice ha fatto delle banali opere interne. Sulle opere interne io stesso non ho mai capito dove inizia la necessità del comune, dove finisce la necessità del comune, perché proprio oggi mi sono fatto due compravendite, una con opere interne fatte il cui il tecnico che assisteva la compravendita ha dichiarato che non c'era nessun provvedimento comunale da chiedere, l'altra l'esatto contrario. Ma comunque mettiamo pure il caso che questa signora dovesse o non dovesse fare la DIA in comune, fatto sta che ha fatto queste opere hanno variato planimetricamente l'appartamento, molto probabilmente cambiata la rete catastale. Sicuramente di compravendite di questa casa non ne fa finché non regolarizza. Allora io le dico, cara signora, chiami il tecnico che le ha seguito questa vicenda, gli faccia concludere l'opera professionale, gli faccia fare la denuncia di opera interna in comune, gli faccia fare la regolarizzazione catastale, così la sua situazione sarà legittima al 100%. L'autodenuncia in comune che cosa gli potrebbe comportare a Tina? Nulla, non succede niente, è una sanatoria di opere fatte in passato che avrebbero potuto essere autorizzate nel momento in cui furono fatte. Benissimo. Allora Tina, quindi insomma per la tua totale serenità si porti avanti anche con questa procedura di regolarizzazione. Andiamo adesso ad un'altra ascoltatrice che è Virginia dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno. Io vi chiamo perché ho acquistato 6 anni fa un appartamento, un ultimo piano, dove dal foglio catastale risulterebbe esserci la soletta e non invece, come la situazione reale di adesso, ma già al momento dell'acquisto, che avevo una piccola scala interna che mi portava a un soppalco e poi da lì a un sottotetto. Tutta questa parte a me non risulta esserci. Quindi a questo punto dico, come mi devo comportare? Però l'avrà profumatamente pagata tutta questa parte, Virginia. Sì, sì, è anche in un contesto con zona di vista lago, eccetera, quindi il tutto poi dopo entra nel prezzo tutto questo. Certo. Però le dico, io adesso sfruttando questa situazione della sanatoria potrei sistemarmi questa cosa anche per, come dice il notaio, un domani che dovessi vendere la casa. Esattamente, perché tanto poi le toccherebbe farlo comunque, certo, Virginia. Esatto, però non è stato fatto nel momento in cui è stata venduta a me, questo è un punto che volevo chiarire, ma comunque, Vada pure. Volevo chiederle, per sistemare questa cosa, trovandomi in una situazione condominiale, io devo prima passare attraverso il condominio o posso comunque procedere direttamente? E poi che costi ho a conclusione dell'operazione? Allora questo magari con il notaio Busani sarà un po' difficile da stabilire, perché non essendo un geometra, quindi non può neanche un ingegnere, un architetto stabilire, a meno che non abbia anche la capacità di poterci dire questo, il che non mi stupirebbe, però è un po' più difficile. Virginia, magari sui costi le chiedo gentilmente di accantonare, andiamo a vedere invece tutti gli altri aspetti. Intanto, essendo tutta completamente la sua proprietà, però in un condominio, deve addirittura definirlo con il condominio la necessità di fare questo condono, di questa sanatoria, notaio? Sarebbe bene che mettesse al corrente. Ho i capelli dritti, perché ho capito bene, se ho capito bene, questa signora è proprietà dell'ultimo piano, vero? Sì. E non le hanno venduto come parte dell'abitazione anche sotto il cosiddetto sottotetto, senza farlo risultare da nessuna parte, ovviamente. Esattamente, con una scala interna lei raggiunge questo soppalco e quindi un sottotetto. Va bene, i capelli dritti ce li avevo per il fatto che in questi casi il primo problema vero è di capire chi è la proprietà del sottotetto, perché speriamo che in questo caso non ci sia questo problema, perché al sottotetto ci accede solo questa signora, il condominio non rivendica diritti su questo sottotetto è stato sempre considerato parte integrante dell'appartamento, e quindi mettiamo che non esistano fastidi di tipo condominiale. Quindi, ha scartato quello, la domanda si risponde da sola, nel senso che se è acclarato che questa porzione non è di proprietà condominiale, non ci vuole nessuna autorizzazione del condominio. Dal punto di vista catastale, evidentemente questo appartamento è accatastato male, ma c'è una spiegazione, c'è, perché ovviamente chi l'ha venduto non poteva venderlo e quindi ovviamente non l'ha raffigurato. Poi se l'ha fatto pagare lo stesso, sono fatti privati di chi l'ha venduto e di chi l'ha comprato. Riusciamo a concludere in 20 secondi, notaio, che deve andare alla rubrica previdenziale? Assolutamente sì, dicendo che la signora deve fare la sanatoria per forza e deve accatastare questo locale, che probabilmente è inabitabile, come sottotetto, quindi come se fosse una cantina, e quindi la raffigurazione planimetrica dell'appartamento post regolarizzazione è una raffigurazione che prevede anche la presenza del sottotetto. Lei ce l'ha un'idea dei costi che devono essere sostenuti per queste operazioni, magari del range? Adesso è chiaramente oserei spingere tra 1.000 e 2.000 euro. Benissimo, grazie notaio, adesso andiamo alle parole della previdenza. INPS, per saperne di più. E questa è la nostra collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il quale ogni giorno appunto vi proponiamo queste parole della previdenza. Il concetto di oggi, la parola di oggi, è assegno di invalidità e vecchiaia. Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'eventuale attività lavorativa ed abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, cioè 20 anni di contribuzione per quanto riguarda il requisito contributivo e 60 anni di età se donna, oppure 65 se uomo, per quanto riguarda quello anagrafico. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno è considerato utile ai fini del diritto alla pensione, purché non sia già coperto da contribuzione da attività lavorativa. E anche per oggi Salvadanaio termina qua. Notaio Busani, grazie per essere stato con noi, la reinterpello presto, mi raccomando, grazie a tutti, sempre in forma. Buona giornata. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, a quale faccio con un giorno di ritardo gli auguri per il buon compleanno di ieri. Salvadanaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.